capito, no? Io sei bello benentale, oh, io d'altronde, io non è che sia grosso, ma è tutto pancia, tutto stomaco è pancia. E poi quelle schifezze che mangio io anche, troppi dolci, a tutte le ore della notte anche, gelati, coso. Queste cose, sì, queste fanno, quelle cose che fanno già stare qui. Manuele, non è che puoi mettere un amplificato per migliorare la modulazione, certe volte non ti capisco, o devo alzare il volume troppo? No, devo cambiare per forza la radio non ne ho, c'ho questo qua, un Intercity 740S, quello 34 canale con una CD, sì, guarda. Ma la tua radio si è rotta o la devo tappare? Mi ha fatto la testa come un limone Torino e gliel'ho data. Ah, vabbè. E così sei senza tu però, vabbè. No, comunque lì basta mettere un amplificattino da 20 euro, anche di quelli ZG da Palmo, e migliora già, migliora la modulazione. No, ma se riesco te lo prendo un altro da base, perché non mi piace, uno da base non è questo. Sì, aia. Natale, riprendi? Ecco, perché riprendi? Che riprendi? Che... Come fa che la settimana prossima accetteranno le emissioni per la... C'ho il 4.40 che funziona tutto meno che la 27. Ma è chiuso di banda? Cioè bisogna espanderlo o cosa? No, boh, non riesce a metterlo a posto. E funziona benissimo su tutte le altre bande. Su queste qua non funziona. In banda laterale va bene, va tutto. Infatti adesso me lo prendo come non funzionante. Scusate. Peccato però, e sai cos'è Natali, ogni anno che passa sono sempre più vecchi e trovi sempre meno ricambi, perché magari gli schemi immagino che li trovi, ma i ricambi, cioè apparecchi di 30 anni più, forse anche 35, boh. Il 140 è uscito prima o dopo? Come? Il 140 è uscito prima del 440. No, perché avevo un dubbio che fosse uscito dopo, non mi ricordo, poi c'era anche il 680, non mi ricordo, guarda, 430, 440, mi pare erano quelli, no, dunque 140, 680, 430, 440, poi già il 450 era diverso, era col display digitale, era già un'altra cosa. Poi non ho sentito molto parlare di quello, forse non era un granché il 27. Il 440 era bello, l'accordatore funziona benissimo, accorda anche subito perché l'ha tutto ritarato, tutto messo bene, solo che la 27 è andata a fanculo, non si sa cosa cacchio abbia. Infatti cerco, se serve a qualcuno lo do come non funzionante, anche se funziona bene è tutto meno che la 27. Oh, porca miseria, la partita è a pagamento, mi sul canale a pagamento, su DAZN a quanto ho capito. E adesso mi tocca prendere il programma Kodi, trovare qualche sito piratone in streaming e guardarmela così, con VPN. Sì, ho capito. No, perché stanno castagnando, lo sai, chi si guarda la roba a sbaffo con questi che mettono le partite gratis o a pagamento, peggio, pirata, stanno castagnando anche lì, non solo chi vende o chi lo mette a disposizione, ma anche chi se la guarda. E quindi bisogna usare pure la VPN per non far vedere il proprio IP. Ma la VPN vivono di là, a chi ha pagamento. Vabbè, che ormai ce ne sono così tante di VPN che si fanno la forca e fanno anche delle offerte, ma non dico di pagherla tutto l'anno, anche se ti serve un mese, cosa ne so, per vederti una stagione sportiva per esempio, che ne so io. Beh, ho finalmente concluso l'affare di... Non saprei che dirti. Imbarrato. Esce con un bel debate, pure col 440 è un mostro. Mi si rompono le balle solo perché non esce il 27, se no me l'avrei tenuto. Comunque i 440 stanno dando troppi problemi questa storia dei puntini, di questa colla, questo isolante che diventa conduttivo, ma da tutto in corto, bisogna troppe rogne, capito? Il 430 forse era il migliore, nata, credo, però non ne trovi, chi ce la se lo tiene, vero? E a me, guarda, non mi ha mai fatto problemi, solo questa volta, perché problemi non me ne ha mai dato il 440. Sì, Natale, quello che avevamo, che è dal tuo, dopo l'hai dato a Franco, e fatto la data a me, come uscirla. Va bello, vai. Non ti vuole già dire, ok. E chi so, bisognava lì di Borsello. Allora già ci va bene. Io ne ho avuto 3 di 440 o 4, 3 o 4 ne ha già avuto, ma non mi hanno dato mai zincubranchi di Bacini. No, non ne davano fastidio, poi fastidio davano la ventola che si vestiva di poveri, si faceva rumore. No, a me non me ne hanno mai dato fastidio, la verità. E guarda, erano di lusso veramente. Ma tu che se ne aveva fatto quel 440, che l'avevo tornato a Franco, non so che l'ha dato appunto. E se l'aveva venduto uno Rusocco a fine affatto. Era una belva, era su 440, e va più io. E anche questo è una belva. Ma lo sai quanto pompa? Fa dei picchi allucinanti. Quello lì secondo me gli hanno chiuso la banda della CB. Non siamo solo nelle bande radiomatoriali. Ma cosa ne so? Ah, va, me lo vendo come non funzionante. Cazzo, mi rompe le balle, tanto non è uso, per non usarne cosa. E lo sai da cosa usate a fare, come se avesse un vettore usare. Infatti, se me lo trattavo me lo trattavo in hobby, no? Peccato sì. Ma riceve tutto? Beh certo che riceve tutto. Però Natali, io direi, tanto mi per lui citti che ti danno. Io lo terrei come ricevitore, proprio come ha detto Emanuele, mi sa perché, forse mi non darlo, almeno riceve. Riceve sì, ma cosa me ne faccio? Mi qua, FT, non ne voglio più, non voglio tenermi più nulla, non me ne sbatte niente, non me ne sbatte. Tanto mi ha giubiato questa antenna Zuruba in oggi e quindi non lo posso usare nelle altre frequenze perché per ricevere devi avere le antenne. Capito? E siccome io non posso piazzare niente perché sono nel mirino, tanto vale a vendermelo. Aspetta, non posso piazzare niente perché sono nel mirino, già lo sai, no? Vabbè, ma quell'antenna veicolare già la potevi mettere. Poi cosa vuol dire? Quello vede l'antenna e dice, disturba. Se non trasmette non può disturbare. E poi quella volta che tu l'hai portata dentro l'antenna, dopo questo, sembrava quasi un coso di colpevolezza a me. Come dire, tu devi dire semplicemente, è un'antenna per ricevere, non può disturbare, e lasciarla. Tu ce l'hai portata dentro come se fossi colpevole, capito? No, ho piazzato quella bimbanda, ho piazzato, ho detto, serve per ricevere, non trasmette questa antenna, giudito, e non può disturbare. E mi era giusto incazzato un budo. Ce l'ho l'antenna HF, una cosa gatto, mi dicono che disturbo se piazzo quell'antenna, anche se la uso per ricevere. Allora mandali dallo psichiatra i tuoi vicini, tutti quanti, in psichiatria mandali. E oia, basta che avere un'antenna, un pezzo di ferro, e disturba. Boh. Inutile, non glielo togli dalla testa. È così, quando vado a qualche cosa sul testo di strano, che tu che disturba, ma quello che viene non è come l'antenna sul testo. Ti ho sentito basso, Emanuele, di radio, a malapena, dovresti parlare proprio attaccato al mic, tipo così, Ma forse filo, Natale, cosa ti volevo dire? Dei vicini, del coso, mannaggia, non mi viene, non me lo ricordo. Certo che Natale, se avevi la possibilità, anche con Concetta, di andare in una casa, tu mi parlavi dell'altra casa, quella in campagna, dove era, boh, dove avevi la stazione buona, le antenne buone, quella da dove facevate DX, faceva i DX il radioamatore, già capito, non mi viene il nome, Salvatore, ogni avreddo, mi sa che da qua decollo io, così mi faccio un po' di cose al computer. Torna. Prova, cioè prendi anche da qua, boh. Vediamo tutto il braccio, lontano tutto il braccio, parlo normale e la modulazione sale, credo. Boh. Cioè, non è amplificato, ma è come che fosse sensibilità ambiente sto microfono. Io signori, dai, che vi saluto e mi occupo di altro adesso. Ascolta, sto caricando la batteria dell'X Data con coso del telefono, bene, va a ricaricarla con quello. Sì, tanto è 5 volt, no? 5 volt la batteria, l'attacco è USB, micro USB mi pare, no? No, ce l'ha presa proprio per attaccarla. AC. DC voglio dire, c'è scritto. Sì. Si sta lampeggiando, già sta caricando. Eia, sai che io avevo comprato subito una batteria di scorta? Subito, avevo preso una Samsung, tu sai il modello, te lo ricordi a memoria, è una 18650, così è la sigla, l'avevo presa dalla Samsung di colore rosa, e mentre la sua era da 2 ampere mi pare, quella Samsung era da 3 ampere e quindi dura ancora di più. E ho capito, e dove la compri questa batteria? Su eBay, su Amazon, tutti i negozi online, tipo eBay o Amazon. Certo, vai a Sassari, non c'è, non si trova, non esiste, ti vanno a dire. Per quello, mandami la sigla su WhatsApp, che me la cerco e me la compro. Quanto costa? Natale, io l'avevo presa subito dopo la radio, se non assieme alla radio, quindi il prezzo non me lo ricordo. Scrivi 18650 18650, basta, non devi sapere altro. E possibilmente le Samsung, quelle rosa, di solito è da 3 ampere. Già me la cerco e vediamo un po', così c'è la batteria di scorta. Sì, perché quando ascoltavo, la usavo con la batteria ovviamente per non prendere disturbi dagli alimentatori, mentre una era in uso l'altra era in carica, capito? Ma poi durava giorni, cioè se non lo tieni tutto il giorno acceso dura giorni la batteria. Lo so, ma si stava scaricando, ce l'avevo tanto tempo, era sempre spento con questo qui. Sai già che ti è candidato? Sì, anche guarda, la mia sarà da caricare, speriamo che non si sia anche interrotta, perché se la lascia scarica troppo tempo, vediamo, dai. Ha giù capito. Io non posso piazzare nulla, perché qua sono nel mirino, non hai compreso. Già sono riuscito a piazzare l'antenna, TV e l'antenna del baracchino, faccia. Tanto patente non me ne danno e quindi lascio perdere. Se avessi avuto la patente allora avrei piazzato di fuori e quant'altro, ma purtroppo non posso piazzare nulla. Vabbè, comunque sì, secondo me anch'io se andassi a mettere altra roba comincerebbero a scocciarsi. Dicevo che per questa storia come vedono l'antenna, tipo baracchino o radio di altro tipo, l'antenna disturba, però sono anche i tecnici che vanno a dirlo quello ai clienti, capito? Come è successo tempo fa, arriva quello, non diciamo chi e quando, il tecnico, vede l'antenna, sì, è l'antenna nel baracchino, mi disturba, e non c'era il cavo collegato, perché avevo tolto il cavo, proprio tagliato e tolto, c'era solo il cadavere dell'antenna sul palo, capito? Per carità, guarda. Sì, ma poi più bello quello dei potenziometri era anche ancora meglio. Ah, vabbè, quello poi dimostra... dimostra tante cose, capito? Ma sembra che vai, se lo vai a raccontare non ci credono, capito? Sembra una barzelletta. Eppure è così. Cazzo, ho visto l'antenna HF piazzata. Cazzo, disturba, stai disturbando, occhio a me. Che bugi, sono anche bugiardimi, perché i disturbi ce l'avranno avuti anche da prima che tu la mettessi, no? Già lo sai. E però non mi sta l'antenna, ah ecco, e allora anch'io quando vedo squadrettare con questo schifo di digitale terrestre, vedo squadrettare, con chi me la dovevi prendere? Col ponte cellulare che c'è qua a 30 metri, ma ah, per carità. E denunciali. E, no, gliele butto l'antenna al ripetitore cellulare. Gli taglio il cavo. No, più bello è mettergli una carica di tritolo. Così muore tritolato. No. Ah, tritolato, non stritolato, tritolato. Ehi, ehi. Bene, signori, io stacco, vado al computer a zuffarmi al computer a fare queste prove con queste periferiche antiche che non si sa nemmeno se funzionano. Ok, ciao Emanuele, Natalino e gli ascoltoni, ci sentiamo quando capita, anche domani, vediamo. Ciao a tutti, ciao. Aiuto, ci facciamo qualche ex, Marco, cazzo, ci divertiamo. Guarda, io oggi volevo provare tripla 5 dintorni, poi vabbè, ho sentito gente, è entrato Giulio, sei entrato tu, e allora abbiamo passato una serata così a parlare in italiano almeno. Ma se entri al limite domani andiamo là. Perché al circolo ci vediamo? Vediamo, dai. C'è la propagazione buona, vediamo cosa si riesce a fare, dai. Senza impegno però, Ok, ciao a tutti, quelli per me, ciao. Ciao Marco, ciao, grazie per le quattro chiacchiere. Ma noi ancora ci siamo. Ciao Marco, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata. Ah va, devo cercare di metterlo in vendita quel 440 e così me ne libero. Metti dalla mia macchina. Mettilo su market please. E adesso quando me lo porta quello lì, gli faccio la fotografia e lo mettiamo lì. Non dire niente, non parlare. Me lo vendo un 200 euro come non funzionante. Ma non lo so se te le danno questi 200 euro. Ma io glielo spiego che funziona tutto meno che la 27. Io me l'avete tenuto come ricevitore, poi in caso è qualcuno avrebbe capito come sistemarlo. Ah, non lo so, si arrangiano, io lo do 200 euro e poi si arrangiano, che ne so, non so più tecnico io, non l'ho mai educato a parecchi, forse è proprio pagato, non mi hanno dato mai problemi. È un peccato averlo così, e non puoi essere 26. In banda laterale è un demonio. Ma neanche ne fai mensa? Non lo so, bisogna chiederlo a quella persona. Ma di tu in 26 non anda, nelle bande sopra non va. Va in HF tranquillamente. Ed è anche un mostro, perché toglie un bel divano. E allora è il circuito chiuso per la città. Secondo me l'hanno messo qualche cosa per la versione 27. Non lo so, il tecnico non è riuscito a metterlo a posto, ha detto che va bene su tutti i posti, anche l'accordatore va meglio di come era prima, accorda subito, perché c'è l'accordatore automatico, quello lì. Lo so. sì, non so, cazzo, un accordatore del 4,40 non mi accordava che un pezzo di filo. Troppo bello era quella parigia. Vabbè, ma intanto non me ne posso nudare, no, già ce l'ho questo baracchino, funziona benissimo. Già era bello, anche sulla sua frequenza. Mi sono scoglionato, non sto ascoltando più nulla. Prima ero sempre attaccato, vero? Mi volevo pigliare la patente, ma non ci sono riuscito, basta, finito. C'ho già una certa età, non me ne sbatte nulla. È un po' difficile, ma Natale, un po' difficile. Sì, vabbè, dai che mi appigli, da. Ci sentiamo che me ne vado a cucinare, che se no non si mangia. Ciao Manuè, alle prossime. Ciao Natale, buona continuazione anche a te, dai, ce la riascoltiamo. E stato anche io, dai. Per me va a farmi la doccia, ci sentiamo dopo. Via.